succede che mi stanco di essere uomo. Succede che entro nelle sartorie e nei cinema. Impenetrabile. Come un cigno di feltro in un'acqua di origine e di cenere. Succede che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie. Dei miei capelli e della mia ombra. Succede che mi stanco di essere uomo. E perciò lunedì brucia come il petrolio, quando mi vede giungere con viso da recluso. E mi urla nel suo scorrere come ruota ferita. E fa passi di sangue caldo verso la morte. E mi spinge in certi angoli, in certe case umide. In ospedali dove le ossa escono dalla finestra, in certe calzolerie che puzzano d'aceto. In strade spaventose come crepe. Chiari mi fa piangere e stridere. Voglio solo riposo di ciottoli o di lana. Non voglio più vedere stabilimenti e giardini, mercanzie, occhiali e ascensori. Dopotutto sarebbe delizioso spaventare un notaio con un gladiolo mozzo. Odor morto una monaca con un colpo d'orecchio. Sarebbe bello andare per le vie con un coltello verde e gettar grida fino a morire di freddo. L'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Voglio solo un riposo di ciottoli o di lana. Non voglio più vedere stabilimenti e giardini, mercanzie, occhiali e ascensori. Dopotutto sarebbe delizioso spaventare un notaio con un gladiolo mozzo. Odor morto una monaca con un colpo d'orecchio. Sarebbe bello andare per le vie con un coltello verde e gettar grida fino a morire di freddo. Stanco di essere uomo. Succede che entro nelle sartorie e nei cinema. Impenetrabile. Come un cigno di feltro in un'acqua di origine e di cenere. Succede che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie. Dei miei capelli e della mia ombra. Succede che mi stanco di essere uomo. Voglio essere più radice nelle tenebre, barcollante, con brividi di sonno, proteso all'ingiù, nelle fradici argille della terra, assorbendo e pensando, mangiando tutti i giorni. E perciò lunedì brucia come il petrolio. Quando mi vede giungere con viso da recluso e mi urla nel suo scorrere come ruota ferita e fa passi di sangue caldo verso la morte e mi